questa volta è più grave delle altre perché le donne iraniane sono considerate come una sorta di minaccia alla sicurezza nazionale e questo evidentemente ha provocato queste proteste diffuse che in realtà hanno due anime, una è quella di movimenti femminili e l'altra è quella di movimenti curdi, perché Mahsa Amini era una ragazza 22 anni curda, appunto uccisa dalla polizia morale, secondo le autorità invece ha avuto soltanto un infarto, evidentemente la famiglia ha negato questa eventualità. Questo fatto così eclatante di abuso nei confronti delle donne iraniane ha provocato diffuse proteste. Prima ci sono state proteste alle porte dell'ospedale dove era stata ricoverata Mahsa a Teheran, all'ospedale Kasra, poi ci sono state proteste durante il funerale, che tra l'altro è stato vietato alla famiglia di fare un funerale pubblico, ma è stato svolto a porte chiuse, e quindi da quel momento si è sviluppato questo movimento che poi ha toccato le città curde, quindi per esempio la città di Sanandaj e anche le altre città delle province curde, che ricordiamo sono state il centro delle proteste già nel 2018-2019, che sono in molti casi partite proprio dalle province curde, che sono particolarmente escluse dal sistema politico iraniano, in particolare i movimenti che sono più vicini alla sinistra, all'indipendentismo curdo. E questo poi ha provocato una diffusione delle proteste in altre città, la città di Sakhet e altre, evidentemente perché uno degli slogan era donna, vita, libertà, proprio per difendere, richiedere maggiori diritti per le donne, da cui evidentemente, come spesso succede in Iran, si è passati alle proteste contro la polizia morale, perché evidentemente la polizia morale che è responsabile dell'arresto e della morte di Mahsa Amini, e quindi in particolare è stata richiesta la sospensione della guida della polizia morale. Ricordiamo, la polizia morale in Iran per esempio di controllare l'abbigliamento, quindi se le donne vestono secondo i dettami della Repubblica Islamica, quindi hanno le hijab e portano dei vestiti lunghi. Evidentemente questo ha provocato proteste nei confronti della polizia morale, ma il colonnello Muzei, che è la guida della polizia morale, prima si diceva che si sarebbe dimesso, dopodiché la notizia è che le autorità iraniane hanno confermato questa figura. E l'altra evidentemente è il sentimento antiregime, quindi ci sono slogan, oltre a quelli femministi, di morte al dittatore, abbassa il dittatore. Ricordiamo, il dittatore si fa riferimento alla guida suprema, che è Ali Khamenei, che ha tra l'altro problemi di salute ed è stato, secondo il New York Times, più volte ricoverato, e ha 83 anni, quindi evidentemente anche lì c'è una questione che riguarda il potere, come cosa accadrà nel momento in cui la guida suprema mancherà, e evidentemente questa è un'altra delle questioni aperte in Iran. Tutto questo avviene in un contesto di stigmatizzazione proprio specifica nei confronti delle donne, che sono tra i protagonisti appunto dei movimenti degli ultimi anni. Per esempio, il 12 luglio scorso è stata approvata la giornata delle hijab della castità. Già il nome fa capire bene qual è l'intento di questa giornata, appunto di promuovere l'uso del velo e il tema della castità, che si unisce ad altri tipi di interventi. Per esempio in Iran è stato approvato il riconoscimento facciale, quindi è possibile fare un riconoscimento facciale. Se questo si unisce alle carte di identità biometriche, spesso le donne che portano degli hijab succinti o addirittura non portano le hijab vengono facilmente riconosciute e arrestate. E oppure c'è tutta questa pratica delle confessioni forzate, per cui ci sono attiviste che vengono fermate. Il caso è quello di Sapide Rashno, di 28 anni, anche lei è stata fermata per un video che è circolato sui social, che la ritraeva mentre veniva rimproverata da un passeggero di un bus pubblico. Evidentemente questo poi ha provocato il fatto che è stata picchiata durante l'arresto ed è stata forzata la sua confessione nei media pubblici iraniani. Anche due leggi sono state approvate, ricordiamo, in questo contesto dove c'è il nuovo presidente Ibrahim Raisi, che è arrivato al potere lo scorso autunno, quindi è un anno che è al potere, e il suo punto centrale di politica interna è stato proprio approvare una legge sul ringiovanimento della popolazione e sostegno alla famiglia, che restringe le possibilità per le donne iraniane di fare ricorso all'aborto e alla contraccezione. Due anni prima, nel 2020, era stata approvata la legge per la protezione della dignità e sicurezza delle donne. Anche in quel caso c'era una forma di limitazione alla criminalizzazione dello stupro e dei matrimoni di minorenni, quindi evidentemente più in generale in Iran c'è un contesto in cui i diritti delle donne vengono calpestati, ma ancora di più adesso perché le donne sono protagoniste dei movimenti, tra le altre che sono quelli per esempio dei mercoledì bianchi, che erano stati ispirati da Masih Ahmadinejad, che adesso si trova negli Stati Uniti, che ha fortemente sostenuto la figura di Mahsa Amini, e anche se di Sepide ha recitato la poesia La Confessione, il sostegno delle donne iraniane che si sono tolte il velo, hanno diffuso i video senza velo oppure mentre si tagliavano i capelli. Ancora adesso sono virali questi video di donne iraniane che si tagliano il velo. Ricordiamo che poi internet è stato bloccato per alcune ore e continuamente quando ci sono proteste in Iran, internet viene bloccato per evitare l'organizzazione delle manifestazioni, mentre l'hashtag a sostegno di Mahsa Amini è diventato virale, viene utilizzato, ci sono milioni di tweet che a sostegno di Mahsa, quindi c'è un movimento che coinvolge le attiviste iraniane fuori e dentro il paese, e questo dimostra anche quello che molti ricercatori e studiosi di Iran stanno dicendo in queste ore, cioè che il movimento non si limita più alle donne che prima chiedevano la fine dell'obbligatorietà del velo, appunto i mercoledì bianchi, ma un movimento più diffuso che riguarda anche donne che sono sostenitrici del velo ma che non hanno per nulla digerito il trattamento che ha subito Mahsa Amini.